Quando si scrivono le ultime parole prima di morire, si cerca sempre di evadere le futilità ed esprimere le cose più importanti. È in questa ottica che dobbiamo leggere la seconda lettera di Paolo a Timoteo, che secondo la tradizione fu scritta poco prima della sua presunta decapitazione. Non è possibile prendere in esame in pochi minuti tutta la lettera, così ho pensato di valutare una verità che, tra tutte quelle in merito al rapporto tra Dio e l'uomo, ritengo essere una delle più importanti. Studiati di presentare te stesso approvato davanti a Dio, operaio che non ha da vergognarsi, che esponga rettamente la parola della verità. Ma evita i discorsi vani e profani, perché fanno progredire nell'impietà, e la parola di questi andrà rodendo come la cancrena. Fra costoro sono Imeneo e Fileto, i quali si sono sviati dalla verità, dicendo che la risurrezione è già avvenuta, e sovvertono la fede di alcuni. Tuttavia il saldo fondamento di Dio rimane fermo, avendo questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono Suoi, e si ritragga dall'iniquità chiunque nomina il nome di Cristo. 2 Timoteo 2, 15-19. Paolo ordina a Timoteo di essere un buon operaio nel campo di Dio e di evitare discorsi inutili con persone che hanno deviato dalla verità e che mettono scompiglio nel campo della fede. Le cose oggi non sono cambiate, anzi sono peggiorate. Viviamo in un pluralismo religioso che a volte confonde i più semplici nella fede. Ogni religione afferma di essere quella vera, nell'ambito della cristianità ogni corrente sostiene di dire la pura verità. Gesù avvertì i suoi discepoli con le seguenti parole: guardatevi dai falsi profeti i quali vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Matteo 7:15. Cosa fare? L'Apostolo Paolo, rendendosi conto di questo problema e conoscendo il gran mistero della fede, fa un'affermazione che è unica nel suo genere e che è in grado di dare pace, luce e gioia a chi ha posto fede in Cristo. Tuttavia il saldo fondamento di Dio rimane fermo, avendo questo sigillo: il Signore conosce quelli che sono Suoi e si ritragga dall'iniquità chiunque nomina il nome di Cristo. Ci rendiamo conto che non siamo di fronte ad una dichiarazione convenzionale, ma ad un asserto di portata unica, il fondamento della rivelazione di Dio. Se il fondamento è quella struttura murale o di pensiero che serve di base per ogni altra cosa, allora siamo di fronte, se non alla più grande, ad una delle più importanti verità del cristianesimo. Senza fondamento tutto crolla. Non crolla solo una casa, ma anche ogni sistema filosofico o assioma su cui poggia la fede di un credente. E più che mai opportuno prendere in esame questo fondamento. Il fondamento di Dio è costituito da due pilastri. Il primo è: il Signore conosce quelli che sono Suoi. E il secondo: si ritragga dall'iniquità chiunque nomina il nome di Cristo. Esaminiamo la prima grande verità che costituisce il fondamento di Dio, cioè che solo Dio conosce quelli che gli appartengono. Questa espressione mette in evidenza due cose. La prima è che non tutti appartengono a Dio. È la tendenza di pensare che ogni essere umano sia figlio di Dio e che alla fine Dio perdonerà a tutti. Ma la parola di Dio riferisce che vi sono i figli di Dio e i figli del diavolo, che vi sono i figli del regno e i figli del maligno. Figli del maligno o di Satana si nasce, figli di Dio o del regno si diventa mediante un atto di fede nell'opera espiatoria di Cristo. L'affermazione «il Signore conosce quelli che sono Suoi» mette pure in evidenza che noi non siamo in grado di sapere o di vedere quelli che appartengono a Dio. Perciò nessuno è in grado con certezza di sapere chi sia figlio di Dio e chi non lo sia. Solo Dio conosce quelli che gli appartengono. Vorrei esprimere questa verità con un episodio della mia vita. Eravamo adunati per manifestare il nostro culto a Dio, ed io, ancora giovane nella vita, ero nel corridoio del locale di culto, avendo il compito di tenere buoni i bambini che erano in una saletta adiacente, mentre le mamme potevano rimanere alla riunione con tranquillità. Ad un tratto un bambino si mise a piangere, e in un decimo di secondo salì alla mia mente un terribile dubbio: chi è la madre di questo bambino? Non avevo avuto il tempo di essere preso dall'angoscia che dalla sala delle riunioni si alzò una sola madre e venne a consolare suo figlio. Rimasi di stucco. Contemporaneamente nella mia mente, come un fulmine, capii come il Signore conosce quelli che sono suoi. Se una madre è in grado di conoscere la voce di suo figlio tra molti bambini, quanto più Dio conosce quelli che lo amano. Ancora oggi il mio cuore giubila. Abbiamo detto che il fondamento di Dio ha due pilastri. Se il primo riguarda solo Dio, il secondo pilastro riguarda l'uomo. Se accettiamo la prima verità, è indispensabile accettare anche la seconda verità. Se si accetta soltanto che solo Dio conosce coloro che gli appartengono, si cade nel misticismo, cioè quella credenza nella possibilità di conoscere Dio senza l'aiuto dell'intelligenza. Se invece si accetta solo la seconda verità, si cade nel settarismo, cioè si pensa di essere i soli nella verità. Il secondo pilastro su cui poggia il fondamento di Dio è: si ritragga dall'iniquità chiunque nomina il nome di Cristo. Questo comandamento non è rivolto a tutti gli uomini, ma a coloro che professano di credere in Dio o a chi nomina il nome di Dio. Questo particolare non deve sfuggirci. Spesso i credenti leggono la parola di Dio come se ciò che c'è né scritto non fosse rivolto a loro. Quando nel libro dell'Apocalisse leggono che Gesù sta alla porta e picchia, pensano che questo gesto di Gesù sia rivolto a dei perduti, ma il contesto ci dice che Gesù sta picchiando alla porta del cuore di una chiesa. Quando gli apostoli parlano di apostasia, essa è rivolta a coloro che hanno professato la fede cristiana e l'hanno abbandonata. Quando Gesù al capitolo 7 di Matteo condanna alcuni alla perdizione, definendoli operatori di iniquità, non si riferisce ad atei o pagani, ma a persone che avevano profetizzato e scacciato demoni nel nome di Gesù. Alla luce di queste riflessioni, l'ordine di ritragga dall'iniquità non è rivolto solo a chi commette cose ingiuste, ma principalmente a coloro che si professano cristiani e non lo sono. Finché coloro che si professano credenti in Cristo non ritengono ciò che è scritto per loro, la Chiesa di Dio non sarà di benedizione nel mondo. Finché i figli di Dio non prendono sul serio che Cristo è morto per tutti affinché quelli che vivono non vivano più d'ora in avanti per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro, 2 Corinzi 5:15, la loro fede è solo teorica. Finché coloro che appartengono a Cristo non prendono seriamente il comandamento di abbandonare tutto ciò che non è gradito a Dio, non saranno in grado di essere dei veri testimoni. Ritirarsi dall'iniquità. Non vi è oggi comandamento così importante. In un clima di riconciliazione, di unione, di dialogo interreligioso, di ecumenismo, un simile ordine suona stonato. Eppure, quando la linea di demarcazione fra la Chiesa e il mondo è diventata incerta, quando il principio di separazione è discusso e abbandonato, quando i credenti trovano sempre il tempo per i loro passatempi e non lo trovano per il regno di Dio, quando la frequenza alle riunioni e alla comunione fraterna diventano dei doveri pesanti, quando la lettura della parola di Dio e la preghiera sono trascurate, quando non si ha più la passione per le anime perdute, allora è il momento di riflettere seriamente di ritirarsi o di abbandonare un simile cammino. Dobbiamo riconoscere che il peccato non si presenta sempre odioso e nelle forme più ripugnanti. I religiosi ebrei al tempo di Gesù erano un esempio di condotta religiosa. Pregavano, leggevano le scritture, erano presenti ai culti, pagavano la decima, facevano le offerte, insegnavano la parola di Dio, erano impegnati nell'evangelizzazione. Eppure sono stati duramente giudicati da Gesù come ipocriti. È molto facile vedere un simile giudizio solo sugli altri, ma anche oggi i credenti pregano, leggono le scritture, sono presenti ai culti, pagano la decima, fanno le offerte, insegnano la parola di Dio, sono impegnati nell'evangelizzazione. Chi può dire che il giudizio di ipocrisia non sia anche per loro? Nessuno può erigersi a giudice, perché chi siamo noi per giudicare un altro dal momento che solo Dio conosce quelli che sono suoi? Ma se i figli di Dio non si ritraggono dall'iniquità,